L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Questa è la nuova collocazione per l'altro pianeta. D'ora in poi ci troveremo sempre di sabato, sempre alle 14, quindi potrete seguirci in diretta qui, ma ovviamente anche su internet con il podcast delle puntate dell'altro pianeta che troverete regolarmente sul sito. Con questa settimana poi l'altro pianeta comincia a sterzare un po' sui temi di Expo, che come ormai tutti dovrebbero sapere, ma lo ricordiamo, ha come temi nutrire il pianeta, energia per la vita. Temi che sono principalmente quindi quelli dell'alimentazione, ma ad ampio spettro, perché per nutrire il pianeta non basta certo coltivare o allevare di più, ci vuole più rispetto per la terra, per come la sfruttiamo, per come ne traiamo l'energia di cui abbiamo bisogno, non solo nelle nostre case, pensando banalmente alle lampadine, ma anche per lavorare nei campi e per gli allevamenti. Speriamo comunque che, come si è augurato Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, inaugurando il Salone del Gusto e Terra Madre di Torino, quello di Milano sia un Expo con l'anima, in cui tutti i temi cui abbiamo appena accennato vengano affrontati e seriamente discussi. Insomma, che Expo non sia o non diventi un supermercato del Made in Italy e basta. In settimana il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha assicurato che non sarà così, parlando al microfono di Marcella Vezzoli e dei colleghi giornalisti che hanno partecipato alla presentazione di Expo in Città 2015, cioè gli eventi che si terranno nell'area metropolitana milanese durante il semestre dell'Esposizione Universale. Sentiamo allora il sindaco Pisapia. Io ho risposto a Petrini rassicurandolo che Expo ha un'anima forte ed è l'anima che come Comune di Milano portiamo in tutto il mondo. L'anima che riguarda proprio i temi di Expo e che dà risposta ai temi di Expo, la lotta alla fame nel mondo, la lotta agli sprechi alimentari e la sana alimentazione. Stiamo lavorando e Expo in città sarà un punto di riferimento importante proprio sul dibattito culturale sui temi di Expo, ma anche delle soluzioni pratiche rispetto a una situazione non più sostenibile, quella di troppe persone che sono obese, troppe persone che non hanno nulla da mangiare, l'accaparramento dei terreni dei paesi ricchi nei paesi poveri, sono temi fondamentali che è e deve essere l'anima di Expo. Su questo la città di Milano sta lavorando, quindi volevo solo rassicurare grandi amici come Don Ciotti, come Olmi, come Carlin Petrini, che questo è il nostro Expo. Non è sicuramente una grande fiera, ma è un grande evento che parlerà a tutto il mondo e avrà gli occhi di tutto il mondo proprio sui temi di Expo. Doppio ruolo del Comune, da una parte Expo, dall'altra ponte per gli eventi collaterali. Sì, questa è, credo che una grandissima novità dell'Esposizione Universale, che non sono solo chiuse nel sito, che chiaramente farà il proprio compito, il proprio dovere, ma si estenderà non solo nella città di Milano, ma nella città metropolitana milanese e poi in tutta Italia, con eventi culturali, artistici, di dibattito, di confronto sui temi di Expo. E questa è la grande ricchezza. Saranno 6 mesi grandiosi che non solo attireranno tantissimi stranieri, tantissimi italiani, ma soprattutto daranno una forte spinta dopo Expo, perché sarà anche un mondo e 6 mesi in cui le grandi imprese, le piccole e medie imprese lavoreranno insieme, creeranno sinergie per creare quello sviluppo sociale, economico e culturale che solo da Milano può ripartire. Questo documento finale, che dovrebbe essere, diciamo, completato alla fine di Expo, è in elaborazione, perché se ne sono perse un po' le tracce? No, per quanto riguarda Milano è in elaborazione e anzi in fase abbastanza avanzata, chiaramente mancano ancora dei mesi. Abbiamo già fatto incontri via internet con dei convegni telematici con tantissime città, con tantissimi sindaci, alla C40, che è il gruppo di città internazionali che si occupano soprattutto di sostenibilità ambientale. Abbiamo lanciato questa idea, c'è stata una grande adesione, ho parlato con tantissimi sindaci di tutto il mondo, soprattutto delle grandi metropoli, e c'è un'adesione. Quindi stiamo andando avanti, arriveremo a sottoscrivere questa carta, che è un impegno concreto dei sindaci rispetto a quello che possono fare le grandi città entro Expo, e abbiamo già previsto tra settembre e ottobre un grande momento di incontro a Milano per sottoscrivere un impegno, ma soprattutto per dimostrare che questo impegno sarà mantenuto. Queste sono le intenzioni e le rassicurazioni del sindaco di Milano, e queste invece le speranze dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, che si chiama Filippo Del Corno. È determinante che Milano diventi un laboratorio di idee. C'è un luogo fertile per lo scambio di idee, opinioni, prospettive, tradizioni, perché il tema che verrà affrontato durante 6 mesi di Expo è cruciale anche per i destini del pianeta. Quindi tanto più questo laboratorio è fertile, tanto più evidentemente le risposte che saremo in grado di dare saranno all'altezza della sfida che ci aspetta. Non ci sono un po' troppo poche iniziative sul tema specifico? Allora, innanzitutto Nutrire il pianeta e energia per la vita è il tema di Expo e quindi questo sarà trattato ampiamente nei padiglioni del sito. Noi abbiamo attivato diverse iniziative che invece riguardano specificatamente il tema, tra cui voglio ricordare la mostra Food, che sarà al Museo di Storia Naturale, che sarà una mostra internazionale importantissima anche per accompagnare verso i temi di Expo. Infatti partirà già a novembre, ma si prolungherà poi per tutti i 6 mesi di Expo e sarà una grande occasione di approfondimento su questi temi. Chiaramente noi abbiamo voluto raccogliere anche quella che è l'offerta culturale generale della città, senza lasciare un impulso tematico troppo forte, ma cercando anche di declinare alcuni dei temi che sono paralleli al rapporto, per esempio, con la natura. Penso alla grande mostra che faremo a Palazzo Reale, che interrogerà proprio questo tema per quanto riguarda l'ottica vista dalla espressione artistica della Magna Grecia. E con Milano ci fermiamo qui, almeno per ora. Torniamo al Salone del Gusto della scorsa settimana. Lì abbiamo avuto occasione di incontrare il paese che per primo si è iscritto a Expo. È stata la Svizzera, che si vanta di avere risposto affermativamente alla lettera di invito del governo italiano il giorno dopo averla ricevuta. La Svizzera è anche il paese straniero che probabilmente è più avanti nel percorso di preparazione di Expo. Un grande stand del paese era presente anche al Salone del Gusto di Torino e lì abbiamo incontrato Andrea Arcidiacono, responsabile del progetto Expo per la Confederazione Elvetica. Questa è la terza tappa del Giro del Gusto. Io le chiedo di spiegare agli ascoltatori della radio che cos'è il Giro del Gusto e che obiettivo finale ha. Il Giro del Gusto che la Svizzera ha organizzato, organizza nel 2014 in Italia, è un'iniziativa che intende promuovere la Svizzera del gusto in tutta la sua diversità e soprattutto presentare prodotti di qualità, qui a Torino prodotti dei presidi Slow Food e prodotti DOP, e anche di preparare insomma idee e contenuti per Expo 2015. Abbiamo fatto 3 tappe, Milano era la tappa popolare con prodotti popolari, Roma la tappa di riflessione intellettuale sul tema dell'Expo con dibattiti e conferenze e qui Torino di nuovo una tappa popolare in questo bellissimo Salone del Gusto dove vogliamo presentare la Svizzera con la qualità, la diversità e l'autenticità dei suoi prodotti. E qui ci sono appunto grandi e piccoli produttori, ci sono i bambini che fanno i laboratori del cioccolato, quindi una delle eccellenze svizzere più note. E da queste tappe del Giro del Gusto diceva appunto noi pensiamo di cominciare a lavorare per l'Expo. Mi riesce a dire, sia pure a grandi linee perché ci state ancora pensando, su quali direttive vi muoverete? La Svizzera vuole presentarsi a Expo Milano come un paese attrattivo nell'alimentazione, solidale e responsabile. Lo facciamo al Giro del Gusto attraverso i nostri prodotti di qualità, attraverso un partenariato fra settore pubblico, confederazione, cantoni, città e settore privato con Nestlé, con Vacheron Constantin, altri sponsor del settore privato. Ed anche a Milano nel 2015 avremo un padiglione svizzero da mangiare, come abbiamo qui anche a Torino una Svizzera da mangiare, con 4 torri che saranno riempite di acqua, sale, mele e caffè, capsule di caffè. I visitatori potranno accedere alle torri, prendere un campione dei diversi prodotti e sanno che se prendono troppo rimane troppo poco per gli altri. Vogliamo quindi, attraverso un semplice gesto di appunto di scoperta dei prodotti, anche indurre in modo simpatico e ludico una riflessione sul consumo responsabile. Bellissima questa idea del ciascuno prende, ma ciascuno deve prendere nella giusta proporzione, senza esagerare. Senza esagerare. Avremo anche appunto all'interno delle torri anche degli slogan, delle infografie semplici, perché sappiamo che i visitatori di solito rimangono in un padiglione fra mezz'ora e un'ora, ecco, per farli riflettere anche con uno slogan sul loro consumo. Ad esempio per il sale avremo uno slogan che si basa appunto It's all about balance, dunque sull'importanza di un consumo di sale responsabile, perché sappiamo che troppo sale nuoce alla salute. Quindi anche in questo campo stiamo cercando insomma un consenso con gli uffici federali della sanità e della sicurezza alimentare che hanno una strategia come l'Italia, come altri paesi, per un consumo equilibrato di sale, ad esempio. La faccio tornare indietro. Perché la Svizzera è stata la prima a confermare la sua partecipazione all'Expo? Eravate già pronti, un processo già avviato? Ci avete creduto fin dall'inizio? Qual è stata la motivazione? Ma la Svizzera, come dice lei, ci ha creduto sin dall'inizio. Abbiamo creduto in Expo sin dall'inizio. È un'esposizione vicina alla Svizzera, quindi è a due passi da casa. La vicinanza geografica, economica, culturale con l'Italia gioca un ruolo importante, e questa vicinanza, il fatto di essere stati i primi, ci permette anche di avere un'ottima posizione all'interno di Expo. Siamo proprio accanto al padiglione italiano, in posizione strategica, e anche lì vogliamo rafforzare i nostri rapporti con l'Italia, che economicamente sono molto forti. L'Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera, con un valore di scambio di 34 miliardi di franchi all'anno. Grazie, e allora buon lavoro. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini in questa nuova collocazione oraria del programma L'altro pianeta, con questo nuovo taglio diretto un po' più verso l'Expo. Parliamo quindi sempre di sostenibilità, con più attenzione alla nutrizione, all'energia per la vita del pianeta, che poi sono i due temi della manifestazione. E allora a questo punto parliamo di una esperienza agricola nata e sviluppata proprio vicino a Milano, con in mente l'Expo. Siamo andati a trovare Mario Vigo, ex vicepresidente di Confagricoltura Nazionale, ora presidente del Centro Studi Innovagri, quindi innovazione in agricoltura, lo dice il nome stesso. Siamo andati a trovarlo, dicevamo, nella sua azienda di Mediglia, in provincia di Milano, dove ha sperimentato il progetto Combi Mais Hydro Technologies, patrocinato da Expo, in vista appunto della esposizione del prossimo anno. Sentiamo da Mario Vigo di che si tratta, che obiettivi ha e che cosa ci si può ragionevolmente aspettare. Iniziamo proprio da zero. Perché? Beh, diciamo il perché. Il perché nasce perché innanzitutto siamo davanti a un'occasione storica e strategica, che è l'Expo. L'Expo è un'occasione assolutamente importante, e noi come imprenditori, come centro studi, abbiamo uno slogan che noi amiamo, che è coltivare pensando. E quindi, se coniughiamo il nostro slogan, per noi vuol dire anche preparare qualcosa che possa essere utile per l'Expo. L'Expo è un'occasione che riteniamo essere irripetibile per la nostra agricoltura. Vorremmo un Expo coraggioso, vorremmo un Expo anche carico di novità, e proprio perché ci chiamiamo anche Innovagri, l'innovazione è uno dei temi importanti. La nostra agricoltura ha necessità di innovazione, di novità. E quindi pensiamo che, avendo scelto una cultura strategica che produciamo, che è il mais, ed è una cultura estremamente significativa anche nel mondo, oggi poi assolutamente sotto gli occhi, diciamo, di tutti gli osservatori e dei media, quindi abbiamo pensato di presentare ad Expo, che ha patrocinato questa nostra iniziativa, un progetto che potesse portare al miglioramento della qualità, della produzione, dell'ambiente, e quindi dare una risposta allo slogan Nutrire il pianeta, energia per la vita. Allora, poi le voglio chiedere cosa intende per Expo coraggioso, ma prima di arrivare a quello le chiedo cosa avete fatto allora. Allora, abbiamo questo progetto parte da due anni, in cui io con alcuni miei collaboratori abbiamo pensato di sfruttare questa occasione e di mettere insieme un pool di aziende, in maniera tale da poter dare una risposta con un progetto che potesse essere significativo per la nostra agricoltura. Allora, cito le aziende che mi hanno seguito: la Syngenta per la produzione degli ibridi di mais e dei prodotti di difesa della pianta, l'Unimer per la produzione degli elementi oligominerali nutrimento delle piante, la Netafim per il sistema di ferti irrigazione e micro irrigazione, la Kuhn come macchine agricole. E quindi, come vede, insieme abbiamo dato origine a un progetto che possa portare a una maggior produzione, ma soprattutto una maggior qualità rispettando l'ambiente. Ecco perché dico che ci deve essere un Expo coraggioso, carico di innovazione e di novità, per cercare di fare un po' anche nel nostro piccolo ripartire questo paese. Dunque, il progetto, voi siete partiti, oggi qui cosa facciamo? Allora, oggi innanzitutto il progetto si divide in due anni. ovviamente l'anno più importante è il 2015, perché è l'anno in cui lo mostreremo ad alcune delegazioni di Expo. Il 2014 è stato un anno di preparazione, oggi noi lo presentiamo, presentiamo i risultati, presentiamo il primo anno di produzione, nel quale vogliamo mostrare non solo la produzione, che è stata maggiore rispetto a dei, diciamo, canoni tradizionali di coltivazione, ma soprattutto mettendo in evidenza gli aspetti positivi dal punto di vista non solo produttivo, ma soprattutto qualitativo e commerciale. Qualitativo e commerciale, quindi già nel primo anno si riesce a avere un'idea di quello che sarà lo sviluppo, non solo per il 2015 ma anche negli anni a venire? Beh, diciamo che rispetto al sistema tradizionale, anche se bisogna fare una considerazione di fondo, che chi fa questo lavoro è l'imprenditore agricolo, è sotto il cielo, e quindi ogni anno è diverso da un altro, e quindi bisogna prendere le indicazioni per quello che sono. Però l'aumento produttivo che noi abbiamo fatto, il 14% rispetto a una cultura tradizionale, ci lascia ben sperare che l'anno prossimo, se sarà un anno appena migliore di questo dal punto di vista comunque climatico, le produzioni incrementeranno. Però abbiamo già due importanti risultati. Uno, l'impatto sull'ambiente è stato estremamente positivo. Due, la qualità della granella l'abbiamo migliorata, e quindi il fatto di migliorare la qualità della granella vuol dire non solo un miglior prodotto, ma soprattutto una qualità che si ripercuote poi sul prodotto finale, che è anche poi salubrità per i cittadini. Quando dice l'impatto sull'ambiente è stato positivo, nel senso, quindi non c'è stata un'impronta pesante, a che parametri si riferisce? Beh, mi riferisco al fatto che sui bordi delle nostre coltivazioni abbiamo istituito un erbaio che abbiamo chiamato impollinator, nel quale vivono le farfalle, vivono ovviamente, cioè vivono tutti quegli animali che possono ovviamente avere la capacità di muoversi anche all'interno della cultura. Questo per dire che la nostra attenzione è massima anche nell'usare determinati prodotti, cioè vogliamo cercare di portare un elemento positivo di produzione nel rispetto dell'ambiente. L'ultima domanda, se ne parla molto ultimamente, i consumi idrici. Su questo tipo di cultura com'è andata? Beh, diciamo che con l'andamento dell'anno, certo, non c'è stato problemi, però può portare, diciamo, anche nella direzione di una maggiore attenzione alla risorsa idrica? No, assolutamente, è uno dei punti fondamentali e direi strategici di questo progetto. Certamente quest'anno, con la grande piovosità, è perfettamente evidente che non abbiamo potuto fare diciamo quel risparmio di idrico, perché spesso i nostri impianti non sono stati in funzione per il fatto che pioveva dal cielo, e quindi questo non è stato diciamo sufficiente a fare dei calcoli precisi. Però direi che una delle carte vincenti di questo progetto è il grande risparmio d'acqua, tant'è vero che in più di un'occasione ho ripetuto che non è solo un progetto per l'economia italiana e quindi per migliorare la produzione del mais in Italia, ma è un progetto attamente adatto a Expo perché è esportabile. In quelle zone che sono meno fortunate di noi e hanno meno possibilità di avere acqua, questo sistema, proprio per la minima riduzione, per il minimo consumo d'acqua, permette di poter produrre anche in condizioni ambientali difficili. Mi riferisco anche a paesi magari del terzo mondo. Certo, e con una buona qualità, mi diceva anche. Assolutamente, sì. Assolutamente, con i parametri che abbiamo applicato noi, diciamo che il risultato è importante per mantenere una migliore qualità della pianta. Faccio solo una parentesi per far capire, anche e soprattutto agli ascoltatori, che oggi il problema, non solo per quanto riguarda la coltivazione del mais, ma molte coltivazioni, è che purtroppo con il cambiamento climatico le coltivazioni sono diventate molto più complesse, molto più attaccate da funghi che hanno anche una certa pericolosità, le micotossine, le aflatossine. Mantenere la pianta sana, che è il nostro progetto, vuol dire fare un prodotto sano. Qualità del mais vuol dire anche qualità di un prodotto per il consumatore. L'ultima questione veramente, e lo chiedo sempre a chi lavora con la terra, quindi ha un contatto diretto con la natura: i cambiamenti climatici si vedono già? Perché in città tante volte si ha la percezione del cambiamento climatico solo nell'evento estremo, nella quotidianità. No, direi che questo è percepito da noi imprenditori agricoli già da anni. Direi che noi siamo stati le sentinelle a capire tutto questo, perché vediamo che le piante hanno molta più difficoltà, non solo gli eventi atmosferici estremi, basta vedere la piovosità di quest'anno e quindi con tutta una serie di elementi patogeni che attaccano le piante. Se fa troppo caldo, perché fa troppo caldo, se fa troppo freddo, perché fa troppo freddo, se piove troppo, ci sono ogni situazione estrema porta chiaramente a delle situazioni di intervento da parte nostra, intervento fitosanitario, per mantenere il prodotto sano e garantire un prodotto di qualità. Ma detto questo, il grande cambiamento l'abbiamo già avvertito da un po' di anni ed è soprattutto un cambiamento derivato anche dall'inquinamento. La ringrazio, buon lavoro e allora appuntamento al 2015, insomma, per il secondo round. Diciamo. Appuntamento Expo 2015, speriamo un Expo coraggioso. Comunque coltivare pensando è sempre uno slogan importante. Ci fermiamo qui ringraziando Mario Vigo, presidente del Centro Studi Innovagri, ma anche imprenditore agricolo, che ha sperimentato questo progetto di produzione di mais nella sua azienda agricola, che si chiama Azienda Agricola Folli, si trova a Mediglia, in provincia di Milano, con l'intenzione di provare a produrre di più, sprecando meno acqua e meno energia. Per quest'anno ci è riuscito, come andrà in un'altra annata ce lo racconterà nei prossimi 12 mesi, un'altra annata con meno pioggia, un'esperienza che è stata comunque patrocinata da Expo, che potrà essere presentata a Expo per discuterne pregi e difetti, vantaggi e svantaggi e dare quella famosa anima alla manifestazione che tutti si augurano potremo trovare. Prima di chiudere abbiamo ancora tempo di inserire quest'ultima notizia, una notizia dell'ultim'ora, perché è stato indetto ed è stato annunciato proprio ieri un concorso per la selezione nazionale dei nuovi talenti imprenditoriali per la valorizzazione delle migliori esperienze imprenditoriali realizzate nel settore agricolo e agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, da aziende start-up, attenzione start-up, aperte da meno di 48 mesi, con condotte da giovani tra i 18 e i 40 anni. Secondo quanto ha reso noto il Ministero delle Politiche Agricole, alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale sarà attribuito un premio da 30.000 euro e la loro partecipazione a Expo 2015 in uno spazio dedicato. I progetti potranno essere presentati entro il 15 dicembre 2014. Ci dobbiamo fermare qui, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 14. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.